Spazio Estate Viaggi, quarta puntata. Dalla Banda a Salta, Argentina. Y estamos conectados con Espacio Estate. De dónde vengo no me olvido, de dónde soy tampoco señor. Soy del Pacífico de corazón, no soy blanco ni negro, yo soy tricolor. De dónde vengo no me olvido, de dónde soy tampoco señor. Soy del Pacífico de corazón, no soy blanco ni negro, yo soy tricolor. Solaneño, solaneño. Spazio Estate. Spazio Estate. E Spazio Estate. Spazio Estate. Un programma Don Pierce sulla frequenza di Radio, Radio Onda d'Urto. Oh yeah, baby. Mucho turismo, vaya solano, trae su himno y cultura. Su raza es una grúa y su playa es su hermosura. Y los nidales que le dan su calentura. Va, escucha mi letra, el mejor banano, la mejor especa. Si eres solaneño, esto no te afecta. Y es que no te afecta, bebé. Bonjour, je suis Aurore, la chanteuse de Son Soleil. Depuis les montagnes colombiennes, moi aussi j'écoute Spazio Estate sur Radio Onda d'Urto. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Quarta puntata di Spazio Estate Viaggi, programma di intrattenimento culturale firmato Don Pierce. Un viaggio radiofonico attraverso il Sud America che vi terrà compagnia per circa un'ora e mezza. Anche per questo episodio, dallo studio di El Valle, Oceano Pacifico, regione del Chocó, Colombia. Il pezzo che avete ascoltato si intitola Solaneño di Jaman, alias di Elias, che è un musicista che ci ha regalato personalmente questa canzone che parla della sua terra, il Chocó appunto, e di Bahia Solano. Un saluto e un abbraccio forte quindi a Elias Jaman di El Valle. Iniziamo subito questa puntata aprendo la segreteria telefonica di Spazio Estate Viaggi. Pronti, via! Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa. Grande Pera, che bello ascoltarti andando al lavoro. Buona fortuna. Mi Tierra Santa. Ciao persona oscena. Ehi, ascolta. E niente. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento. Comunque, ti ho mandato la foto che io, meglio tardi che mai, ma con calma le ascolto. Ho ascoltato anch'io le tue due puntate. Finalmente in smart ho potuto accendere la radio e mentre lavoro mi ascolto le tue puntate. Così non mi rompe nessuno, ascolto qualcosa di piacevole, passa più velocemente il tempo. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. No, allora secondo me la parte introduttiva va un po' accorciata. Cioè, poi io magari dico cazzate, cioè, nel senso, sto solo dicendo in base al mio gusto personale. No, vabbè, cazzate le dicono tutti, non ti preoccupare. Ringraziamo quindi le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno mandato questi messaggi in settimana. spediteci anche voi i vostri messaggi, anche vocali, tramite i social Facebook e Instagram donpears.it. Donpears.it. In queste pagine, tra l'altro, troverete le foto, i video e le storie del viaggio in bici. Questo è Trueno insieme a Victor Heredia e cantano Tierra Santa, che è un pezzo che è uscito proprio lo scorso maggio. Tra due minuti, alla fine di questo pezzo, torniamo col sommario della puntata. Ciò vino al mondo a difendermi tierra, soy el salvador pacifico en la guerra, me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba y Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Espacio State. E passiamo ora al sommario di questo quarto episodio di Spazio State Viaggi. Nella prima parte, tra pochi minuti, proseguirà il viaggio in bici di Giacomo, cicloviaggiatore inesperto, che ha iniziato a pedalare a Buenos Aires per arrivare dopo 5.000 km e 3 mesi a Lima. Quest'oggi seguiremo la bici tra la città di La Banda, Santiago del Estero, fino alla città di Salta. Dopo aver lasciato La Banda e dopo aver pedalato diverse centinaia di chilometri con un caldo estremo, Giacomo arriva a Salta lo scorso 8 marzo, con qualche ora di anticipo dall'inizio dei cortei organizzati in città dai movimenti femministi locali. Inoltre vi proporremo un'intervista a un movimento di donne lavoratrici della musica che lottano per la parità di genere. L'intervista andrà in onda nella seconda parte di Spazio Estate ed ospiterà Carolina Aik dell'organizzazione Movimento Musica de Mujeres. Ci racconterà come, con molta fatica, un gruppo di musiciste lotta per i loro diritti di base, primo fra tutti il diritto a lavorare alle stesse condizioni dei colleghi uomini. E infine, nella terza parte di questa trasmissione, torna la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, a cura di Mirko. Oggi ci parlerà di Ricardo Piglia, romanziere e critico letterario argentino della seconda metà del secolo XX. Piglia ha rinnovato profondamente l'arte del romanzo dell'America ispanica, mescolando finzione e critica in testi in cui la forma si presenta come ibrida tra romanzo e saggio. La sua grande passione per Cesare Pavese lo rende un autore molto interessante per i lettori e le lettrici italiane. Ancora un po' di musica e poi andiamo avanti con la prima parte di Spazio Estate Viaggi. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato di quanto sono stato bene nella città di Rosario. Vi ho parlato dei miei nuovi amici e delle mie nuove amiche che mi hanno fatto conoscere la loro amata città, della quale imprescindibile è il fiume che l'attraversa, il Paraná. Per questo vi ho anche raccontato dei rischi che corre questo fiume, il secondo più grande del Sud America. L'estremo sfruttamento umano lo sta letteralmente prosciugando. L'acqua è usata massicciamente per gli allevamenti e per le coltivazioni. È sempre più scarsa anche a causa dei cambiamenti climatici e questa scarsità prosciuga le zone umide che circondano il letto del fiume, dando luogo ad incendi continui che mettono a rischio la salute di milioni di persone. L'ecosistema risulta infine totalmente alterato dalla presenza umana e minaccia, a sua volta, proprio la stessa specie umana. Vi ho raccontato delle strade percorse tra Rosario e La Banda, città gemella di Santiago del Estero, nonché dei pochi, semplici e genuini incontri che ho avuto nei piccoli paesini della campagna argentina. Oggi riprendo il mio racconto da qualche decina di chilometri prima della Banda, dove mi sono fermato per un paio di giorni. Il viaggio continua in direzione Salta, dove ho iniziato, tra l'altro, a salire le Ande dopo 1500 km di allenamento in pianura. Non scenderò più dalle Ande per i prossimi 3000 km. Sono Giacomo, cicloviaggiatore inesperto. Ho deciso di partire in bicicletta da Buenos Aires e, in 3 mesi, sono arrivato a Lima. Santiago del Estero è una provincia argentina del nord particolarmente calda. Mi avevano avvisato della possibilità di trovare delle temperature estreme. È fine febbraio, l'estate argentina volge al termine. Gli ultimi chilometri che mi separano dalla Banda sono però particolarmente impegnativi, appunto perché le temperature arrivano facilmente a 35 gradi. Come vi raccontavo nella scorsa puntata, non hanno l'abitudine di salire in sella la mattina presto. Così pedalo anche nelle ore centrali della giornata. Con il sole a picco sono talvolta obbligato a prendere qualche pausa per non svenire. Bevo almeno 5 litri di acqua al giorno. È ormai un mese che sono arrivato in Argentina e c'è sempre stato il sole. Un meteo così favorevole non me l'aspettavo, ma non avevo pensato di trovare temperature così elevate. Arrivo bello sudato alla Banda. Mi sta aspettando Letizia, un'amica di un amico conosciuto a Rosario. Mi ospita lei per un paio di giorni. Nella sua zona molti quartieri sono di recente costruzione. Letizia abita in una di queste case che le agenzie immobiliari vendono a prezzi vantaggiosi, per non dire stracciati, agevolati da prestiti bancari favorevoli. Così dice lei, poi, come possono prevedere in Argentina i tassi di interesse sui mutui, mi dico, e quale sia il momento di ottenere prezzi vantaggiosi, data l'instabilità del pesos, non glielo domando, penso che nemmeno il miglior economista argentino riuscirebbe a farmelo capire. Il barrio dove vive Letizia è talmente nuovo da mancare di anima. È molto esteso, ma ci sono solo un paio di negozietti. Sembra un quartiere dormitorio, poca gente in giro, nonostante abbiano anche costruito qualche piazza. Salta all'occhio la via Maradona, in realtà non degna del suo nome, piccola eppure lei senza anima. Letizia invece mi accoglie calorosamente. A proposito dei miei commenti sul caldo, mi informa che a inizio gennaio, un paio di mesi prima, le temperature arrivavano frequentemente a 50 gradi. Ora, il 24 febbraio, ce ne sono quasi 40. È inizio pomeriggio e l'unica cosa da fare è rinchiudersi in casa con l'aria condizionata, aspettando la sera e un po' di fresco. Questo è uno dei posti nei quali dormire in tenda sarebbe un grave errore. Il caldo non mi permetterebbe di riposare. Inoltre, mi avvisano, la città è particolarmente colpita dai furti. quindi tenda, affari personali e soprattutto la bicicletta vanno messi al sicuro. Inizio subito a cercare contatti di organizzazioni da intervistare. Incontro Carolina Eich, musicista e leader di un movimento che si batte per i diritti delle lavoratrici dello spettacolo e per la parità di genere nel settore, in città e in tutta l'Argentina. Scopro in questa occasione che Santiago del Estero è famosa per la chacarrera, musica folclorica tradizionale di fama internazionale. Inizio subito gli ascolti. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descanso por los caminos. Mi piace la musica popolare e non avevo idea che la chacarera fosse così influente nella musica argentina e sudamericana. Huele a pueblo il caminante che ha desgranato il cammino, sabe a lucha la palabra. Conclusa la mia intervista con Carolina, passo a casa di Letizia per ringraziarla per l'ospitalità e riparto verso nord-ovest, direzione Termas del Rio Hondo. Si tratta di una località turistica, famosa specialmente per ospitare il circuito argentino del GP. Fa un caldo torrido. Arrivo velocemente in un campeggio in riva ad un fiume. Il posto è molto bello. Preferisco risparmiare e non spendere 10 euro per una camera con aria condizionata. Con 10 volte meno dormo in riva al fiume, nella mia tenda, e il campeggio ha anche una piscina con acqua termale. È un errore clamoroso. Il caldo è opprimente. Anche alle 3 di notte la temperatura non scende sotto i 30 gradi. Il campeggio inoltre è particolarmente frequentato da famiglie, il cui unico motivo di essere lì è grigliare di tutto e di più praticamente 24 ore al giorno. Mi piace questa atmosfera da sagra popolare, ma con l'aiuto delle zanzare non riesco a dormire per 2 giorni. Sono tra l'altro obbligato a fermarmi un giorno in più del previsto, poiché devo riparare un paio di viti del portapacchi posteriore della bici, che si sono spezzate con il peso e con qualche buca. Appena possibile mi rimetto in sella, direzione Salta. Scelgo la strada più lunga, che sale fino a 3000 metri. Perché voglio visitare un paio di luoghi che dicono siano incantevoli. Finalmente mi sto avvicinando per la prima volta alle Ande. L'emozione è grande. Tra qualche giorno inizierò le salite, quelle vere. Intanto mi godo gli ultimi chilometri di pianura. Adoro passare i caselli senza pagare. Molte strade, infatti, pur non essendo autostrade come siamo abituati a vederle in Italia, sono a pagamento. Pagano i camion, i camper, le auto, le moto, ma non le bici. Per me è una soddisfazione non dovermi fermare ai caselli, non tanto per il risparmio, ma perché mi convinco ulteriormente che la bici è davvero il mezzo perfetto che coniuga salute fisica e mentale, che non mi stressa, né se sto andando al lavoro, né se come ora sono in vacanza. La bici è economica e mi permette di allungare le mie vacanze, poiché non richiede carburante, la manutenzione è minima e non devo pagare il pedaggio. Oltre ai paesaggi, sempre agricoli e sterminati, incontro qualche monumento che celebra Perón ed Evita. Non conosco abbastanza la storia controversa di questi due personaggi, pur essendomi fatto raccontare varie volte da molti amici il loro punto di vista. mi regalano un libro di Ignacio Montes de Oca, che si intitola Il fascismo argentino, la matrice autoritaria del peronismo, che confonderà ancora di più le mie idee a proposito. Resto tuttavia impressionato da due statue che vedo in un piccolo paesino, in stile totalmente contemporaneo, e mi viene in mente questa canzone. Un giorno succede che arrivo a Famaglià, modesto paesotto ai piedi della cordigliera. Mi rendo conto che domani inizierà una dura, durissima salita. Immagino che non pedalerò più in pianura per i prossimi 2 o 3 mila chilometri, e così sarà. Mi sveglio il giorno seguente e pedalo i primi 30 km in leggera salita. Ad un certo punto la pendenza aumenta clamorosamente. Ho 60 kg di materiale, bicicletta compresa, e quasi 80 kg di me. E li devo far salire almeno fino a 2000 metri, prima di trovare un paese dove rifornirmi di cibo, acqua e passare la notte. La strada è abbastanza trafficata, punto ad arrivare a Tafí del Valle, che è un paesino in una valle appunto che dicono sia meravigliosa. La salita è ininterrotta per quasi 40 km, con tornanti immersi in una specie di giungla. Il paesaggio è cambiato improvvisamente, dopo 1500 km di pianura, soia, paesaggi semidesertici e talvolta molto aridi. L'umidità e la temperatura scendono in maniera direttamente proporzionale alla salita. Il sudore lo quantifico in diversi litri. Devo costantemente prendere delle pause. Un po' per riprendere fiato, un po' perché i muscoli delle gambe, nonostante siano allenati, mi fanno male. Infatti, rispetto alla pianura, mi rendo conto di usare altri muscoli che non sapevo neanche di avere. È una pedalata durissima, ma alla fine arrivo a Tafí e lo spettacolo del valle col tramonto è indimenticabile. Cerco un posto dove piantare la tenda. La valle è molto estesa e trovare un posto tranquillo non dovrebbe certo essere difficile. Ma sono distrutto dai miei primi 2000 metri di dislivello in una giornata. Mi fermo quindi in un ostello che trovo guardando sulle mappe. Mi posso accampare in giardino, pagando un piccolo prezzo, 3 o 4 euro, non ricordo. Con questo posso usare il bagno. Inoltre comprende la cena e la colazione. Non male, mi dico, dato che non avevo nessuna voglia di cercare dove fare una spesa e cucinare con fornellino e gavetta. Mi alzo il giorno successivo nel sacco a pelo e nella tenda. Quando provo ad alzarmi, mi sento come se un cane mi stesse mordendo i muscoli delle gambe, per non parlare dei dolori alle braccia e ai polsi. Dopo una profonda dormita, mi rendo conto, sono più distrutto di quando mi sono coricato. Sono molto indeciso sul ripartire. Dovrei pedalare almeno altri 55 km per arrivare al prossimo villaggio, a Maixá. Non sono tantissimi, il problema è che bisogna salire di altri 1000 metri per arrivare ad un passo chiamato El Infernillo, 3000 metri, e poi riscendere di nuovo a 2000 metri. Sottovaluto la faccenda e riparto. La fatica già dei primi chilometri è impressionante. Il sole è molto forte, non c'è una nuvola. Non c'è più il caldo e l'umido che ho lasciato in pianura, ma sudo comunque come se mi stessi per sciogliere. Mi prudono gli occhi quando non riesco ad impedire al sudore di entrarmi dentro. Il sangue mi ribolle nelle vene, i polmoni si fanno grossi, mi sento sempre più pesante. Avanzo ad una media di 4-5 km all'ora. me ne restano alcune decine prima di arrivare al passo, il punto più alto. Poi sarà solo discesa. Santa Maria de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Ad un certo punto, per la prima volta, vedo un lama. L'emozione è grande, mi viene la pelle d'oca solo a ripensarci. Avevo sognato a lungo di vedere questi splendidi animali, liberi nelle montagne, apparentemente incuranti delle condizioni meteorologiche, con il loro sguardo attento e strafottente. Sono felice, accelero dalla gioia, anche se dopo qualche secondo mi sembra di dover svenire dalla fatica. Se ho visto un lama, mi dico, significa che il passo è vicino. 3000 metri è un'altitudine da lama. Poco dopo sono all'Infernillo, il passo. Per la prima volta nella mia vita sono arrivato in bici a 3000 metri. Soy un principe sullao, de eso que no se pueden rescatar. Il paesaggio sulla valle di Tafí è spettacolare, verde, con un grande lago a fianco al paese, corsi d'acqua, vegetazione che quasi mi ricorda le Alpi. È incredibile come pochi chilometri dopo cambi tutto. Inizio la tanto desiderata discesa. La strada è molto scadente rispetto a quando ero salito, è piena di buche e con la bici devo fare attenzione. Andando piano riesco a fare qualche video guidando con una mano sola e approfitto per osservare il paesaggio. Non riesco a scorgere nessuna costruzione. È molto più secco rispetto alla valle di Tafí, che ho lasciato da pochissimi chilometri. Finalmente, i cactus. La mia passione. Queste incredibili, incantevoli piante caratterizzano il paesaggio. Alcuni sono alti 5 o 6 metri. Non ci sono molte qualità differenti, almeno qui, però tutti hanno taglie e forme diverse. Non crescono ovunque, ma prediligono alcune zone. Chissà perché, forse sono più secche o più umide. Quasi mi commuovo. Avevo desiderato tanto di vedere cactus di quella taglia. Soy un principe sullao, de eso que no se pueden rescatar. Velocemente percorro una ventina di chilometri di pura discesa, poi giungo ad Amaisha. Se stamattina alla partenza ero distrutto, ora non so più come definirmi. Punto diretto ad un piccolo albergo che sembra carino e sicuramente economico, poiché è appena 10 minuti dal centro. Mi accoglie Juan, il proprietario, padre di due giovani figli dall'aspetto un po' punk. Mi fa mettere a mio agio, prendo una camera e mi fermo da lui ben 4 giorni. Ho assoluta necessità di riposare. Inoltre, sono salito velocemente, ovvero in 2 giorni fino a 3000 metri. Ora sono risceso a 2000, però, oltre alla stanchezza, temo di sentire lievemente il mal di montagna. Mi ero portato dei farmaci specifici e per questo mi impasticco serenamente. Passo praticamente 2 giorni a letto. Poi incontro 2 viaggiatrici e un viaggiatore provenienti da una città del sud e che sono alloggiati da Juan. Mi propongono una scampagnata a visitare una cascata. Nuove amicizie e altre conoscenze davvero speciali. Dopo 4 giorni di quasi riposo totale, riprendo la bici e viaggio fino a Cafayate, che dista 67 km. La notte precedente ha diluviato. Incontro una strada completamente allagata. Le automobili non possono passare, a parte qualche coraggioso e grosso pick-up che va ovunque. Esito, poi mi rendo conto che a piedi le persone passano. Il problema è che ci sono grosse buche in alcuni punti, troppo profonde per le auto normali, ma a piedi no. Quindi mi dico, nemmeno in bicicletta. Riesco quindi a passare. Mi convinco ancora una volta che la bici è il mezzo di trasporto migliore del mondo. Si passas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. discendo dalle montagne, belle discese, paesaggi spettacolari. Arrivo alla vigna, poi a Salta. È l'8 marzo. Ho deciso di essere qui, oggi, per partecipare alle manifestazioni. Sapevo che Salta è una città particolarmente conservatrice. Sono nato e ho vissuto a Verona per 20 anni. So che in questo tipo di città i movimenti che si oppongono allo status quo possono essere molto interessanti. Infatti, a Salta troverò i movimenti femministi tra i più radicali incontrati durante tutto il viaggio. Vi racconterò dei miei incontri a Salta nella prossima puntata. Nel frattempo, tra pochi minuti, l'intervista con Carolina Aik, registrata nella città di La Banda, Argentina. Cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso, te hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. State ascoltando Spazio Estate, un programma Don Pierce sulla frequenza di Radio Onda Adulto. Radio Onda Adulto. Carolina Aik è la presidentessa dell'associazione civile Movimento Musica de Mujeres. Buongiorno e grazie per il suo tempo. Anzitutto le chiederei di presentarsi. Queria pedirte che te presentaras, por favor. Sì, bueno. Soy música, soy santiagueña, soy feminista y bueno, soy parte de este gran movimiento de mujeres trabajadoras de la música. Bene, sono musicista, sono di Santiago e sono femminista. Sono parte di questo gran movimento di donne lavoratrici della musica e formiamo un gruppo non solo a Santiago, ma in tutto il paese. Un gran raggruppamento di lavoratrici del mondo della musica. E mi dedico alla musica, ho un mio gruppo che si chiama Las Mujeres e con il quale abbiamo iniziato tutto questo movimento. L'Associazione Civile Movimento Musica de Mujeres nació en 2016. L'Associazione Civile Movimento Musica de Mujeres è nata nel 2016, qui a Santiago del Estero. Quali sono le principali ragioni che hanno portato alla creazione del movimento e qual è la sua missione? Bien, nosotras, l'associación nace a través de una inquietud de Cecilia Nazar, mi compañera, y bueno, una inquietud mía también. Veníamos siendo parte de esta. L'associazione nasce a causa della preoccupazione di Cecilia Nazar, una mia compagna, una preoccupazione anche mia. Eravamo parte di questo gruppo musicale di donne, cantanti, musiciste, interpreti. Stavamo transitando per i palcoscenici, vivendo un'esperienza che ci lasciava un sapore strano. Sentivamo che si chiudevano porte. E ci chiedevamo se tutto ciò stava succedendo solo a noi o se si trattava di qualcosa che succedeva anche ad altre donne. Allora, mosse da questa preoccupazione, abbiamo convocato alcune compagne, lavoratrici del mondo della musica, di qui, di Santiago e della Banda, che sono città vicinissime. Ci siamo riunite e ci siamo rese conto che si trattava di qualcosa di generalizzato. La mancanza di spazio, la scarsa considerazione, i maltrattamenti, la violenza, erano cose che succedevano a tutte in ambiti differenti, all'interno di quello che è il mondo della cultura di Santiago del Estero. Allora abbiamo deciso di unirci e creare un movimento con l'obiettivo di valorizzare ciò che potevamo fare insieme, che sarebbe stato molto più di quello che avrebbe potuto fare ognuna di noi da sola. E da quel giorno, il 17 dicembre del 2016, abbiamo manifestato la nostra voglia di lottare, di lavorare in una società più giusta, più egalitaria, nella quale possiamo avere accesso ai palcoscenici, tutti, tutte, dove le nostre voci possano essere ascoltate. Che il canzoniere santiagueño e argentino in generale possa crescere con le voci di tutte e di tutti. Questa è la missione, continuare a lavorare con piccole e grandi azioni il cui obiettivo sia l'uguaglianza. Así que bueno, esa es la misión, seguir trabajando con pequeñas y grandes acciones que apunten a la igualdad. Cosa significa per voi il concetto di sorellanza? Il concetto di sororidad. Es un concepto que bueno, viene del feminismo obviamente y que nos ha servido un montón para... È un concetto che viene dal femminismo e che ci è stato utile per incontrarci, perché a Santiago del Estero femminismo nel 2016 era una brutta parola. E questo concetto ci è stato utile per demistificare un sacco di cose che erano malintese. Abbiamo fatto corsi e altre attività e ci siamo rese conto che eravamo in qualche modo vittime di un sistema che ci opprimeva, e in questa specie di fraternità potevamo incontrarci e generare qualcosa insieme per tutta la società. Come si organizza il lavoro quotidiano del movimento? Il lavoro diario è un lavoro che, inclusive in pandemia, che ha sido tutto un tema, ha sido... Il lavoro quotidiano è uno sforzo che anche durante la pandemia, che è stato un periodo problematico, è stato possibile sostenere. È un lavoro che si realizza con assemblee periodiche. Generalmente ci riuniamo ogni 15 giorni, lavoriamo in commissioni organizzate, la commissione di comunicazione, la commissione legale, differenti commissioni che lavorano nel modo più coordinato possibile in maniera orizzontale. C'è una presidenza che però ha a che fare con questioni legali e niente più. Le decisioni le prendiamo assolutamente in maniera orizzontale. Facciamo riunioni in cui tutto si decide in congiunto. Anche se si realizzano atti e documenti, il modo in cui lavoriamo è molto libero e così ci va bene. E poco a poco il movimento va crescendo, si va muovendo, anche perché in questi anni sono successe un sacco di cose nelle nostre vite, nei nostri corpi, nelle nostre menti, e la gente si è mossa dentro il movimento. Oggi potrei dirti che più o meno la metà delle compagne oscillano tra i 20 e i 40 anni, più o meno. Abbiamo una sola compagna che ha 72 anni e le altre sono tutte più giovani. Tenemos una sola compañera que tiene 72 años y después todas las demás son muy jóvenes. Y bueno, no, nos estamos nutriendo ahí de toda la manera de manejar. E lavorano tutte nella musica, nel settore dello spettacolo. Todas trabajadoras de la música, sí. Todas trabajadoras de la música. Tutte lavoratrici della musica, sì. In questo momento nel movimento ci sono solo musiciste, voglio dire, potrebbero esserci tecnici del suono e così via, però non ci sono a Santiago. Non c'è gente che si stia dedicando a questo ora come ora. E quasi tutte siamo donne. C'è una compagna trans che tra l'altro canta incredibilmente bene, ma che è l'unica del collettivo LGBT. Però confidiamo che la partecipazione possa generare più interesse, più voglia, più partecipazione da parte di altre compagne. Bene, parliamo un po' di come lavora il movimento per trasformare la cultura patriarcale e decostruire le sue logiche. Quindi quali sono le principali azioni e formazioni proposte dal movimento? Sì, bueno. Muchas acciones, porque te imaginas que en 5 años hemos ido probando cosas, hemos generado... Beh, molte azioni. Pensa che in 5 anni abbiamo provato varie cose. Abbiamo iniziato con piccole azioni, facendo conoscere discografie, pubblicizzandole. Questo è un lavoro con cui ci siamo caricate le spalle, far conoscere le compagne che stavano creando e che però non avevano visibilità. Da una parte questo. Abbiamo scommesso sulla formazione, la formazione artistica per appoggiare il progetto musicale delle compagne. Abbiamo implementato un piano in totale autogestione, però con l'accompagnamento dello Stato, perché se c'è qualcosa che facciamo è articolarci con lo Stato, tutto il tempo. Ci stiamo sempre avvicinando al governatore e alla governatrice, cerchiamo sempre il dialogo. Crediamo che lo Stato siamo noi stesse, che ci appartiene. E qui sono le nostre radici e continuiamo ad articolarci con le municipalità, con i direttori e direttrici di cultura, con il governo provinciale e anche col governo nazionale. Quindi cerchiamo sempre di collaborare per ottenere il nostro obiettivo. La cosa più importante che abbiamo creato è il primo, secondo e terzo incontro nazionale di musica di donne lesbiche, transessuali, intersessuali e non binarie, che è iniziato nel 2018 in forma presenziale, nel 2019 il secondo ancora in formato presenziale, nel 2020 in formato telematico a causa della pandemia, e adesso si farà dal 14 al 16 di aprile qui a Santiago dell'Estero, condizioni epidemiologiche permettendo. È un incontro che riunisce le lavoratrici della musica di tutto il paese e che contempla una parte di formazione attraverso la creazione di corsi tematici, anche molti spazi di dibattito e discussione, conferenze, presentazioni di libri e dischi, concerti, jam session, che sono incontri informali in cui passa la chitarra, ci si passa lo strumento, si passa di qualcosa di molto quotidiano per noi musiciste, ed è uno spazio di grande interscambio e di crescita per tutte. Y es un espacio que de mucho intercambio y de mucho crecimiento para todas. Bueno, el encuentro es como nuestra acción más importante dentro de todas las que venimos haciendo. Ecco, l'incontro è la nostra azione più importante. Con l'associazione facciamo parte anche di un comitato assessore del Consiglio federale delle donne e diversità della provincia, dove stanno tutti i ministeri del governo e dove noi facciamo proposte. È un dialogo costante con lo Stato, crediamo in questo. E ci stiamo avvicinando sempre, spingendo le nostre proposte e insistendo, bussando alle porte. Desde el noviembre de 2019, nel 2019, a novembre, è stata approvata la ley de cupo femenino, una legge della quota femminile e di accesso ai palcoscenici per le donne e le diversità. Questa legge è approvata dall'Istituto Nazionale della Musica, di cui facciamo parte anche noi. Stabilisce un 30% di quota femminile e di diversità sui palcoscenici. È stata approvata nel 2019, regolamentata dal febbraio 2020, poi è arrivata la pandemia ed è stato un periodo strano. E infine, dall'anno scorso, 2021, sono tornati gli spettacoli presenziali e ancora continuiamo a essere sostenitrici di questa legge in ogni parte del territorio di tutta l'Argentina. Perché l'Argentina è immensa e sentiamo che questa legge è ancora molto contrastata. Nonostante tutto ciò di cui parla, nonostante a livello nazionale esista il Ministero delle Donne e le Diversità, nonostante al governo nazionale si parli e promozioni il tema del diritto delle donne e della comunità LGBT. Nonostante tutto ciò, l'altra sera siamo state a un evento nella città di Loreto, a 50 km da Santiago del Estero, e di 12 gruppi solo uno era al femminile. Ed era il nostro gruppo, Las Mujeres. Uno era de mujeres, que era el nuestro, Las Mujeres. Después no había. Quindi continuiamo a lavorare su questo, generando azioni, dialogando con intendenti, con governatori, presentando note, insistendo. Siamo convinte che i palcoscenici siano spazi per tutto, per tutti, tutte. Sono spazi che si finanziano anche con il denaro di tutte e tutti. Allora crediamo che se le donne partecipano, se vengono rappresentate, genereremo e stimoleremo la partecipazione e la voglia che più donne e bambine decidano un progetto di vita nella musica. Crediamo che sì, ma le mujeres y las diversidades. Participamos, estamos más representadas en los escenarios, vamos a generar, vamos a estimular la participación y las ganas de que más jóvenes y niñas decidan un proyecto de vida en la música con factibilidad de trabajo, digamos, con factibilidad, porque aquí también hay que aclarar que estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de trabajo. Perché qui stiamo parlando di lavoro. Noi siamo lavoratrici, lavoratrici della musica. In definitiva, parliamo di diseguaglianza e violenza. Continuiamo a impulsare azioni in questo senso. Viviamo creando incontri. Abbiamo organizzato Emporade Musica Noa nel 2018. Torneremo a farlo quest'anno in luglio. Si è realizzato in 2018, si va a volver a hacer ahora. È un incontro di donne musiciste della zona nord-est dell'Argentina, Uy, Catamarca, Salta, La Rioja e Santiago del Estero, con l'obiettivo di generare corridoi culturali, di poterci articolare con lo Stato. Anche se siamo un movimento autogestito, stiamo sempre dialogando con lo Stato e stiamo generando valore per raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo generando recursos per lograr nuestros objetivos. E ci sono anche dei conflitti con lo Stato? Sì, claro. Può avere conflitto. Totalmente. Totalmente, perché si bien vas, realizas una gestione. Sì, chiaro, certo. Perché anche se vai, realizzi un'azione, parli con l'intendente, ti mostra la foto, il giorno dopo fai il festival, l'incontro, il concerto, quello che è, e continua ad essere solo di uomini. Così questa conversazione, questo dialogo è caduto nel nulla, no? A volte succede che vai, realizzi un'azione, parli con l'intendente di turno e lui ti asseconda per quanto riguarda un incontro, un concerto, un festival, per poi assumere solo uomini. E così sembra che il tuo lavoro sia stato inutile. Adesso in aprile ci riuniamo per il quarto incontro e creeremo uno spazio per decidere cosa fare adesso. Abbiamo la legge in mano, ma la stanno ignorando assolutamente, anche se la legge ha un carattere punitivo, perché se non la rispetti ti danno una multa del 6% di tutto il ricavato, che sono soldi, diciamo. L'obiettivo non è questo. L'obiettivo è che finalmente si aprano nuovi spazi per tutto. Siamo in tensione costante, andiamo e veniamo, però non retrocediamo, andiamo sempre avanti. Sì, en constante tensión, pero a seguir dialogando, a seguir dialogando. Perché la musica è così importante per la promozione dell'egualità, della diversità, del patrimonio e delle opportunità delle donne? Per la promozione dell'egualità, della diversità, del patrimonio e delle opportunità delle mujeres. Bueno, la musica es representativa de... La musica, l'arte in generale, è rappresentativa di una cultura. Noi pensiamo che grazie alla musica possiamo conseguire una trasformazione e pensiamo che è uno spazio in cui dobbiamo promuovere l'uguaglianza. Dobbiamo stare lì, mantenendo questo spazio. Stiamo lavorando anche noi in rete con altre compagne di altri spazi, lavorando sul territorio, online, anche con le compagne di altre aree rispetto alla musica. Adesso, in marzo, creeremo un'attività che si chiama Movemos el Mundo, Sinfonia de Géneros, e ci uniremo con collettivi di donne artiste, muraliste, ballerine. Inoltre ci articoliamo con associazioni, collettivi e gruppi di tutti gli ambiti. Ni una menos, vivas, mujeres trans, mujeres meretrices. Stiamo sempre lavorando in rete e crediamo che la musica sia un veicolo assolutamente trasformatore e ci sembra che da qui possiamo trasformare questa realtà che ci continua ad opprimere. Stiamo sempre lavorando in rete e crediamo che la musica sia un veicolo assolutamente trasformatore e nos parece che desde ahí podemos transformar esta realidad que nos sigue oprimiendo, digamos. Vorresti aggiungere un'ultima considerazione per concludere l'intervista? Alguna altra considerazione per concludere? Credo che he dicho todo, perché mi pare che la organizzazione della che somos parte. Credo di aver detto tutto. Mi sembra che l'organizzazione di cui facciamo parte è molto potente. Nasce a Santiago del Estero ed è una città particolarmente patriarcale, molto tradizionalista. Movimiento Música de Mujeres nasce, cresce e si espande come un piccolo seme che ha contagiato altre compagne. Contagiando a altre compagnie e oggi in dia siamo 32 organizzazioni. Ora siamo circa 32 associazioni di lavoratrici della musica nel paese. Abbiamo creato un'associazione virtuale nel 2020, Truena, Trabajadoras Transfeminista de la Música. Ha un carattere plurinazionale, ci incontriamo in rete ogni 20 giorni per creare azioni con l'obiettivo di creare legalmente una federazione, perché ci sono varie organizzazioni nel paese. La cosa importante in questo momento in cui gli spazi ancora non sono completamente aperti e continuano ad opporre resistenza, la cosa più importante è che non siamo sole. Sembra una frase fatta, però è molto reale e molto bello questo. Sapere che con un click siamo connesse, che ci accompagniamo in qualsiasi tipo di azione. Siamo veramente sorelle nella musica e siamo connesse grazie a tutti i mezzi disponibili. Sapere che a un click o a un... Mi sembra la cosa più importante, che nel paese siamo organizzate, con un'agenda in comune, che ci tiene unite. Che è molto importante che la vamo llevando juntas. Noi 5 anni fa siamo nate come un'associazione civile di donne del mondo della musica e oggi possiamo pensare nella diversità che allora non tenevamo in conto. Adesso abbiamo una prospettiva transfemminista. L'incontro Musica de Mujeres Lesbianas Trans e tutte le diversità. Questo è molto importante e questo è tutto ciò che posso dire, credo. Non mi do cuenta che basti poco andare. Bentornati e bentornate in studio. Avete ascoltato l'intervista a Carolina Aik, presidentessa del movimento Musica de Mujeres, registrata a Santiago del Estero lo scorso febbraio. Ne approfittiamo per ringraziare Daniela Dello Russo, alias Coco di Jet, che ci ha prestato la voce in italiano nell'intervista. Un po' di musica, ma torniamo subito. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquisaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llegó un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me salió un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. E questa canzone che state ascoltando si intitola La bronca di Sara Hebe, uscita solamente qualche settimana fa. Le musiche della cantante e compositrice argentina sono riproposte in tutte le manifestazioni femministe, non solo in Argentina e in Sud America, ma anche in Europa. Vi lasciamo quindi con gli ultimi minuti di questo nuovo pezzo di Sara Hebe, poi la rubrica di Mirko, dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Bye. alta defensa, eso es chiquitaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Estamos conectados con Espacio State. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Ricardo Piglia, il grande romanziere argentino della seconda metà del XX secolo, tra finzione, critica, racconti noir e una grande passione per Cesare Pavese. Dopo una vita consacrata alla letteratura, Ricardo Piglia è morto il 6 gennaio 2017. Forse il nome di questo scrittore argentino non dirà molto al pubblico dei lettori italiani. La sua scomparsa, infatti, da noi è passata quasi inosservata. La stampa gli ha dedicato giusto qualche articolo. Pochi gli scrittori e i critici italiani che si sono soffermati a ricordare questo artista che ha rinnovato la narrativa latinoamericana, pubblicando romanzi imprescindibili come Respirazione artificiale del 1980 e La città assente del 1992, e che non ha mai smesso di riflettere sulla letteratura con saggi esemplari come Critica e finzione del 1986 e L'ultimo lettore del 2005. Dando uno sguardo alla biografia di Piglia, si ha l'impressione di trovarsi davanti alla vita di un predestinato. Nasce nel 1941 ad Androghé, dove Borges trascorreva le sue estati. Piglia assicura che proprio l'autore dell'Aleph e di Finzioni lo richiamò un giorno mentre teneva in mano un libro capovolto che fingeva di leggere in pubblico. Un evento significativo della sua vita fu il trasferimento da Androghé nel 1957. Il padre, un peronista convinto, decise, dopo la fine della cosiddetta Revolución Libertadora, di trasferirsi con la famiglia a Mar del Plata. Piglia lo considerò sempre come un esilio forzato. Iniziò a scrivere e a tenere un diario. Conobbe Martínez Estrada, il primo scrittore affermato con cui ebbe la possibilità di conversare, e Steve Ratliff, un nordamericano che lo introdusse alla lettura di Faulkner e della narrativa statunitense. A Mar del Plata, Piglia decise di iscriversi alla facoltà di storia. In varie occasioni spiegherà che la scelta fu dettata dalla volontà di diventare uno scrittore. La storia mi permetteva di mantenere la relazione di distanza e di vicinanza che cercavo con la letteratura. Uno storico è la cosa più simile che conosco a un romanziere. Gli storici lavorano con il mormorio della storia. I loro materiali sono un tessuto di finzioni, di storie private, di racconti criminali, di statistiche, di frammenti di vittoria, di testamenti, di rapporti confidenziali, di lettere segrete, di delazioni, di documenti apocrifi. Da Critica e finzione. Piglia si interessò soprattutto della storia argentina del XIX secolo e in special modo a Sarmiento e alla generazione del 37. Tali studi saranno alla base del suo primo grande romanzo, Respirazione artificiale, il cui incipit è emblematico. C'è una storia? Se una storia c'è, inizia 3 anni fa. Da Respirazione artificiale. Le vicende storiche argentine ed europee avranno un ruolo importante nei suoi romanzi e si intrecceranno continuamente con la finzione, tanto da portarlo a creare personaggi come Emilio Renzi, respirazione artificiale, e Junior, dalla città assente, tratteggiati dallo scrittore come infaticabili cacciatori di indizi e decifratori di enigmi. Del resto, una delle attività che più assorbirono Piglia verso la fine degli anni 70 fu la lettura di romanzi noir. In una delle sue conferenze a Princeton, ricordando quell'epoca, Piglia ha affermato che per avere 15 o 20 titoli da mettere sotto contratto si devono leggere 300 libri. Si tratta di una lettura prima di tutto quantitativa. Ho passato circa 2 o 3 anni a leggere quasi esclusivamente romanzi polizieschi, da critica e finzione. Già i racconti pubblicati nel 1975 sotto il titolo Nombre falso stabiliscono un'alleanza tra critica e finzione poliziesca e sviluppano la sua idea del critico come detective che, da una posizione strategica, indaga il materiale narrativo. L'incontro con la letteratura nordamericana, il lavoro sui romanzi noir e l'originale concezione della critica letteraria come tema spesso alla base delle sue finzioni, porta Piglia alla creazione dell'alter ego, Emilio Renzi. Il personaggio, apparso per la prima volta in Un pesce nel ghiaccio, ultimo racconto dell'invasione, la sua prima opera pubblicata nel 1967, nei panni di un giornalista in fuga, dal fantasma di una donna e alla ricerca di quello di Cesare Pavese, e poi ricompare in Respirazione artificiale, dove riceve una lettera dallo zio Marcello Maggi. Sarà una presenza costante, in seguito, nei suoi libri, per arrivare fino ai 3 volumi dei diari di Emilio Renzi, immensa opera di finzione autobiografica su cui l'autore argentino continuerà a lavorare fino alla morte. Tuttavia, la costellazione letteraria entro cui Piglia si muove è enormemente più vasta e il suo sguardo abbraccia temi e autori da prospettive inedite, come dimostrano la sua rilettura di Borges attraverso l'opera di Roberto Arlt, l'accostamento tra Sarmiento e Macedonio Fernandez, ma anche proposte ben più ardite, come quella di Tardewski, personaggio di Respirazione artificiale, ispirato al gran scrittore polacco Witold Gombrowicz, che legge Kafka sulla base degli scritti di Hitler, giungendo a ipotizzare un incontro tra i due personaggi storici. Proprio Respirazione artificiale, romanzo pubblicato nel 1980, è l'opera che consente a Piglia di arrivare alla notorietà internazionale. Qui l'alter ego dello scrittore, il giornalista e aspirante scrittore Emilio Renzi, indaga su una delle storie che circolano nella sua famiglia e finisce per sviluppare una trama complessa e stimolante, piena di riflessioni sulla storia della dittatura argentina e sulla letteratura stessa. Il successo del suo primo romanzo si consolida con la pubblicazione di Critica e Finzione, un saggio critico sulla letteratura, in cui presenta le sue analisi delle opere di Cortázar, di Borges, di Arlt, di Faulkner e di molti altri, oltre ad approfondire il cinema, la narrativa e il genere poliziesco. La versione edita di questo libro include una delle sue lezioni a Princeton, l'università in cui ha lavorato dal 1987 al 2010, con alcune interruzioni dovute alle sue lezioni all'Università di Buenos Aires e all'Università della California. Alla fine di questo decennio pubblica Prigione Perpetua, nel 1988, una raccolta di racconti in cui ritroviamo il suo alter ego, Emilio Renzi. Dopo alcuni anni di silenzio, pubblica il suo secondo romanzo, La città assente, una finzione distopica ambientata a Buenos Aires durante la dittatura. In questo romanzo, Piglia racconta il viaggio di un giovane giornalista tra le notizie ufficiali e quelle create dalla macchina narrativa, un oggetto che crea una serie di problemi mescolando le sue storie con quelle dello Stato. 5 anni dopo pubblica Soldi bruciati, nel 1997, un romanzo basato sulla rapina milionaria di un camion carico di denaro orchestrata da Marcello Nene Brignone, Carlos Cuervo Smerales, Roberto Caucho Dorda e Mario Malito, in complicità con le autorità locali. Questo romanzo ha ricevuto il premio Planeta Argentina nel 1997 e il premio Iberoamericano di letteratura José Donoso nel 2005. All'inizio del nuovo millennio, Piglia ha presentato il suo studio letterario, intitolato Dizionario della novella de Macedonio Fernández, seguito dal racconto El pianista e dai saggi E l'ultimo lector e Teoria del complot. Nel 2010 esce il romanzo Bersaglio notturno, vincitore del premio della critica, in cui si racconta l'omicidio di Tony Duran, un famoso portoricano cresciuto nel New Jersey. 3 anni dopo ha pubblicato il suo ultimo romanzo, Solo per Ida Brown, in cui ci presenta un'altra delle avventure del giornalista e studioso Emilio Renzi. Dopo la diagnosi di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, nel 2014 Piglia si è dedicato interamente all'organizzazione e all'editing dei suoi scritti incompiuti, tra questi i suoi diari, pubblicati con il titolo Los Diarios de Emilio Renzi. Negli ultimi anni della sua vita, Piglia ha ricevuto il premio Iberoamericano di narrativa Manuel Rojas nel 2013 e il premio Formentor nel 2015. Un elemento importante da evidenziare nell'opera di Piglia, di grande interesse per il pubblico italiano, è la forte fascinazione dello scrittore argentino nei confronti di Cesare Pavese e, più in particolare, del diario dello scrittore torinese, Il mestiere di vivere. Questa vera e propria passione si concreta a più riprese in articoli, interventi, saggi e note di diario. Ma l'omaggio più sentito che Piglia dedica a Pavese si trova senza dubbio nella sua prima raccolta di racconti, L'invasione, dove compare un racconto intitolato Un pesce nel ghiaccio. La narrazione di Un pesce nel ghiaccio inizia con un giovane Emilio Renzi che si reca a Torino per svolgere ricerche sull'opera, il diario e gli ultimi giorni di vita di Cesare Pavese. Lì incontra una serie di sosia, mentre ricrea l'itinerario finale della vita di Pavese. Vede da lontano amici e conoscenti che si suppone siano dall'altra parte dell'Atlantico, tra essi una donna, Agnes, che vorrebbe dimenticare. In questa situazione un po' allucinata, Renzi diventa una sorta di doppio di Pavese, abbandonato da una donna, scrive le sue impressioni sui suoi quaderni, dalla copertina nera. È il ricercatore, incaricato di leggere e decifrare l'enigma nascosto nel diario del torinese in quei giorni che hanno preceduto la sua morte. Renzi osserva: solo chi scrive un diario può capire il diario scritto da altri. E in tutto il racconto si riproduce il modus facendi tipico dei diari. Renzi cancella, rilegge e scrive di nuovo, varianti della stessa frase. La vita di Renzi si intreccia con quella di Pavese, così come la sua scrittura. Il giovane ricercatore mescola le annotazioni del suo diario con frammenti tratti da Il mestiere di vivere e dalle ultime lettere che Pavese scrive in quell'agosto a Torino. Poi, come spesso accade nelle narrazioni di Piglia, la storia si trasforma in una sorta di poliziesco in cui si indaga sul suicidio di Pavese, come se fosse un delitto perfetto, perché, come dice lo stesso scrittore italiano, i suicidi sono timidi assassini. Nella seconda parte di Un pesce nel ghiaccio, Emilio Renzi si reca nella città natale di Pavese, Santo Stefano Belbo, e il tempo trascorso in treno gli permette di riflettere sulla stesura del diario, mettendo in relazione le opere diaristiche di Pavese e Kafka, e di interrogare il trinomio letteratura-donna-morte, configurandolo come l'asse di un equilibrio precario, all'interno del quale la donna, o meglio, l'assenza o l'abbandono da parte di una donna, diventa il detonatore della creazione, o, al contrario, può portare disperatamente all'autodistruzione, alla negazione della vita, al suicidio. La perdita è stata la cosa più atroce che potesse capitare a qualcuno. Essere abbandonati, sapere che la persona che si ama sta con qualcun altro. Oh tu, abbi pietà, vederla con un altro. Questo è lo stato d'animo in cui si commettono i crimini, scrive Piglia Pavese. Nell'ultimo segmento della storia, Emilio Renzi è arrivato a Santo Stefano Belbo e visita l'esposizione Cesare Pavese, gestita da un polacco che parla uno strano italiano. La sua occupazione è cercare oggetti unici, diversi dagli altri oggetti della serie. È un collezionista. In questa occasione aveva scoperto l'esistenza di una copia di un film del 1946, Black Angel, in cui Constance Dowling, l'ultimo grande amore fallito del poeta italiano, interpretava un ruolo breve ma straordinario. La copia conservata nel museo era appartenuta all'attrice e poi allo stesso Pavese e dura 85 minuti, 4 in più rispetto al film che era stato commercializzato. Secondo il polacco, Pavese si dedicava a guardare più e più volte quelle immagini dell'amata che, in quella scena di 4 minuti, appoggia fuori dalla finestra un acquario con un pesce scuro che nuota da solo nell'acqua trasparente e che finisce per congelare a causa della neve e del successivo omicidio della ragazza. Un pesce nel ghiaccio. Piglia recupera questa immagine che Pavese ha certamente inserito in una lettera del 17 agosto alla sorella. Eccola. Mi sono sistemato in un albergo che mi costa pochissimo e dormo benissimo. Le mie camicie e i miei abiti vengono puliti in hotel. Non è necessario che rientrate lunedì 21. Sto bene, come un pesce nel ghiaccio. Riccardo Piglia, uno degli scrittori che più hanno influito la letteratura in lingua spagnola nella seconda metà del XX secolo, si posiziona in questa maniera come uno dei più sinceri ammiratori di uno tra i più grandi letterati italiani, offrendo peraltro inedite letture della produzione artistica di Cesare Pavese. Molte sono le opere di Piglia tradotte all'italiano. Ne segnalo alcune. Respirazione artificiale, edito da Sur nel 2012. La città assente, edito da Sur nel 2014. L'invasione, edito da Sur nel 2015. Critica e finzione, edito da Mimesis nel 2018. Thank you. riflesso cileno affisso sul muro. Promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina che noi è mortale, sono più di 3 anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza note di uno che si è perso. E come di consueto, quando sentite queste note, significa che Spazio, Estate, Viaggi sta giungendo al termine della puntata. Cantata tra i denti. In questo quarto episodio abbiamo ospitato Carolina Aik del movimento Musica de Mujeres di Santiago del Estero. La salutiamo. Ce ne andremo lontano. Mirko, che oggi vi ha presentato Riccardo Piglia, tornerà la prossima settimana con la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Saluti finali vanno anche a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che ci hanno inviato i loro messaggi, anche audio, all'indirizzo Facebook e Instagram donpers.it. Donpers.it. Continuate a scriverci e continuate a seguire Spazio Estate Viaggi in FM o sul sito www.radioondadurto.org. Io sono Giacomo e vi ho presentato Il Viaggio in Bici. Don Pierce, Spazio Estate Viaggi, torna tra una settimana per una nuova puntata. Restate all'ascolto delle frequenze antagoniste del Gatto Nero. La cultura o è un fatto di popolo oppure non è. Un saludo a Spazio Estate, Radio Onda Durto. Yo pienso que. Oh yeah, baby. No han sido tan inútiles las noches que te di. Marcha así que. Yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa. Yo sono venuto più volte a Santofemi, assolutamente sì. Grazie, buon concerto. Sonrisa che a mí mismo me abrió tu paraíso. Como tú. Yes, baby. Pero mi sitio duele. Lo comparas con alguno. Igual mejor que yo lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada. Spero di tornare a Radio Onda d'Urto al festival perché mi manca sinceramente e voglio divertirmi. Amigos, para qué, maldita sea. Oh yeah, baby. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te digo. se llaman tú. Solo por eso tú debes hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Y si no tienes ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Merci mille fois a tous les auditeurs et auditrices de Radio Onda Adulto. Una noche más. Mi amor. Radio, Radio Onda Adulto. Se dice que por cada hombre hay una como tú. No comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo no perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. No tienes ni decir en qué he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Sigo siendo dormir me guacho, pero no la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rapia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria. TR1 en el área. Arriba al escenario me parezco un super saiyan. La luz es azul, el uniforme con los Ray-Ban. Son quien me persiguen donde va, donde vaya. Si tren no dice el hip, todo el barrio dice hop. Dice hip, dice hop, dice hip, dice hop. Fuck the police, se cagan los Robocop. No apagan el monoblock, su cara de what the fuck, papi. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Fuck the police, fuck the police. A mí no me toque a la clica, lo homie. Nos dicen cabeza negra, todos saben quién soy. Para ni con agua, ni con fuego, ni con plomo. Oh, shit. A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo. Pero no nos va a fallar, porque somos más que ellos. No nos van a agarrar, porque somos más que ellos. Esta es la puta canción del pueblo. No nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop, pa' que tenga y pa' que guarde. Se rasca en el bigote, pero es demasiado tarde. Mire la imacera, ya lo pagaron con sangre. 911 veces, me cago en su yunta madre. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money.